comunque Sanremo prima di lasciarvi. Allora, la situazione si è ricompattata a San Giovanni, per cui da lì e sono poi fatte le lezioni, si è fronteggiato sempre le canalette e continua a fare i trattamenti lacrimogeni. A piazza, diciamo, da San Giovanni e via Verona è sulla presa e la tutta piena di manifestanti. Oggi ci si è mossi da via Verona e verso il Colosseo per andare comunque da Trigi degli Altri e Circo Massimo. La situazione ormai è comunque si è fatta, diciamo, in favore dei manifestanti a questo punto, visto che la polizia può solo difendere altri spazi e usare lacrimogeni idranti. Per cui si stanno tutti ricompattando verso Circo Massimo. D'accordo, tu adesso sei lì, stai vedendo la situazione com'è, perché le notizie non sono confortanti comunque, quelle che ci arrivano, cioè si vede un bel po' di trambusto, insomma. Pronto, non te lo ripeti, non ho capito, scusami. Dico, quello che noi sappiamo è che lì in questo momento c'è una camionetta dei carabinieri in fiamme, eccetera, eccetera. Sì, Parigi, c'è una camionetta dei carabinieri in fiamme, ma comunque la situazione per i manifestanti è leggermente insieme, nel senso che comunque la polizia è sempre in numero minore o sta solo allontanando. Va bene. Non vedo di oltre le piccole cariche, non vedo né, non ho visto né arresti né nulla del genere, almeno io, poi ovviamente. No, infatti, per quanto riguarda eventualmente qualcuno volesse andare via da lì, a quanto pare da via Carlo Felice ci sono dei posti di blocco, ma comunque lasciano passare se non rompi troppo. Io sto andando via da via Merulana fino a Terni. Da via Merulana, anche precisamente, quindi se ci fosse gente che vuole andare... Da via Merulana o comunque da via Laticana verso Marconi. D'accordo, va bene. Andare via verso Marconi e verso Termini. Manzoni, va bene, comunque sì. D'accordo, ti ringraziamo allora di tutte queste telefonate e ci sentiamo a presto, va bene? Presto. Grazie. Un abbraccio.